La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, in questo primo maggio, quindi primo maggio, festa dei lavoratori, rituali, concerto a Roma, anche in altre parti d'Italia. Questo è il primo anno in cui, come avrete capito, non è più solo il grande concertone che da moltissimi anni oramai è diventato un po' il fulcro intorno al quale le associazioni sindacali, oltre alle loro manifestazioni ufficiali, il mondo del lavoro dipendente, il mondo del lavoro festeggia questo annuale appuntamento, e in un paese ovviamente in cui la disoccupazione sta messa come sta messa, 12,7%, e con un 40% di disoccupazione giovanile, è un giorno in cui risparmiarsi tante chiacchiere, però è anche un giorno nel quale, rispetto all'attenzione preminente che viene di solito data, per tante ragioni comprensibilmente, al lavoro dipendente, noi e io in particolare decido di dedicare la puntata del primo maggio al punto di vista dei lavoratori un po' più negletti, se mi permettete, cioè quelli che in realtà sul totale delle nostre forze di lavoro del nostro paese rispetto poi ai paesi avanzati sono molto più consistenti che in altri paesi, e che quindi non riesco a capire perché poi vengano trascurati. Di che cosa parliamo? Parliamo di questo primo maggio dal punto di vista dei lavoratori autonomi, sì, degli autonomi, di quelli che abitualmente, ne parliamo tante volte quando parliamo di fisco, evasione, obblighi tributari, medie comparate di redditi disponibili, eccetera, eccetera, finiscono nel fuoco delle polemiche. E allora tentiamo di ricapitolare in questo primo maggio, negli anni di crisi che abbiamo alle spalle, qual è il bilancio per i lavoratori autonomi nella loro complessità, ovviamente di settori del commercio, l'artigianato e così via, di quanti morsi hanno avuto dalla crisi, se davvero se la passano poi meglio dei lavoratori dipendenti, come sono andati i loro redditi, che cosa lo Stato ha fatto, che cosa lo Stato ha chiesto e chiede a loro. Ecco, questo è un po' il taglio, un po' diverso, i lavoratori autonomi al centro del primo maggio, con una riflessione che non ha e non deve avere niente di sprezzantemente polemico, perché il mondo del lavoro, tanto dipendente che autonomo, è, a mia maniera di vedere, l'ho sempre ripetuto, il mondo dei datori di lavoro, soprattutto nella piccola impresa, nella microimpresa, che è fondamentale del nostro paese, invece di farsi la guerra e polemizzare, sono uniti da interessi così convergenti che veramente è un punto di vista preistorico quello di fare polemica. Quindi nessun elemento di polemica, però la necessità di riflettere anche su quello che avviene nel mondo del lavoro autonomo italiano. Ed è con noi uno dei paladini, per così dire, più storici oramai nel nostro paese, che ha acquisito i meriti per dare molti numeri, per far riflettere su tutti i temi del lavoro autonomo, cioè Giuseppe Bortolussi, segretario della CGIA di Mestre. Grazie di essere con noi in questo primo maggio, Giuseppe. Salve a tutti, ciao. Allora, Giuseppe, ci dai qualche numero, se uno deve guardare i lavoratori autonomi, quanti erano e quanti sono nella crisi? Sì, beh, i lavoratori autonomi, se noi guardiamo un dato abbastanza certo, che è quello, diciamo, dal 2008, primo anno di crisi, al primo trimestre 2013, per essere seri si potrebbero anche dare delle stime, ma insomma hanno perso 400.000 addetti. Meno 6,7. Se ci si riflette un attimo, sempre per lo stesso periodo, è il doppio di quanto hanno perso i lavoratori dipendenti, a dimostrare che questi stanno soffrendo particolarmente. Quando si scherza sui loro redditi, anche se il Ministero dell'Economia poi smentisce e dice non è vero quello che ha detto il Dipartimento delle Finanze, che è sempre Ministero dell'Economia, che i lavoratori autonomi guadagnano meno dei loro dipendenti. Non è vero, è sbagliato, manda i comunicati, però nel frattempo in maniera molto subdola si fa capire questo. E allora questa gente chiude, sta male perché chiude. Chiude perché sta male, capisci? Cioè non guadagnano e chiudono, è la loro realtà. Gente che magari prima faceva l'operaio, ha perso il posto come dipendente e cosa fa? Si crea una piccola attività, si autoimpiega, mette i soldi della sua liquidazione e ha tutto il paese contro. Quando si parla di Europa si parla per esempio di Small Business Act. Il Small Business Act dice una cosa molto importante, dice bisogna creare il clima adatto per fare impresa. Ma perché? Beh, perché ce l'hanno su con questa gente che è quella che crea l'occupazione? Non solo si autoimpiega, ma quando le cose vanno bene assume una, due, tre persone. Allora vedi un dato importante, che è più importante anche di quante aziende sono morte, perché se andiamo a vedere quante sono morte e quante sono nate di imprese, al di là di quanti addetti hanno perso, beh, ne sono nate un po' di più di quante sono morte. Uno dirà, ah vedi, allora non è vero, stanno bene allora. No, perché quelle che muoiono magari hanno 7, 8, 10 dipendenti e quelle che nascono sono imprese della speranza, sono imprese magari da un addetto che cerca di sbarcare il lunario, cerca di un futuro. Mi spiego, perché quando chiude un autonomo, no? Non ha nulla, non ha cassa integrazione, né in deroga, né speciale, né ordinaria, non ha nulla, non ha mobilità. E allora cosa succede? Che di fronte a sé al baratro, di fronte a sé ai debiti che ha fatto per farsi la sua azienda, tira giù la saracinesca e deve reinventarsi la vita. E quindi questi dati che io ti do sono importanti proprio per questo, perché la gente dovrebbe riconsiderare la cosa. Questi autonomi, questi piccoli imprenditori, sai quanti posti di lavoro crea? In pratica il 67% dei posti di lavoro in Italia, tolto il pubblico impiego, è nelle imprese con meno di 50. Ma il più bello di tutti è che il 57% è nelle aziende con meno di 20. E quindi quando la signora Maria chiede dove lavorerà un domani suo figlio, o va nella pubblica amministrazione o va in queste aziende, perché le grandi aziende occupano sì e no il 20% e ogni anno lasciano a casa 15, 20, 30 mila addetti, non perché sono cattivi, ma perché migliorano le loro produzioni, la loro produttività, la loro competitività e quindi le lasciano a casa. Allora, se uno vuole proprio nel giorno della festa del lavoro e non solo dei lavoratori pensare al lavoro futuro, deve pensare a come favorire le piccole imprese in maniera che crescano. Invece c'è tutto, lo sai, un modo di vedere, solo la grande è importante. Se la Fiat starnuta 4-6 pagine su un qualsiasi quotidiano ci sono sempre, e invece quando la piccola impresa dice guardate che mi state facendo male, ti faccio un esempio, Job Act. Bene, sono stati tolti alcuni vincoli, ma c'è una cosetta, quel 20% di limite. Uno dice, ma cosa vuol dire? Cioè, un'azienda che ne ha 100 può prenderne solo 20 di lavoratori temporanei, ma una che ne ha uno, quanti ne può prendere? Già. Una che ne ha due, quanti ne può prendere? E quella che ne ha zero e che spera di crescere e dovrebbe prendersi il primo lavoratore temporaneo, con zero, quanti ne può prendere? Zero è lui da solo, quante ne può prendere? Allora vedi, è questa incomprensione. E io ti ringrazio di dedicare questo spazio della tua trasmissione, questo spazio prezioso a questo, perché vedi, nessuno lo fa ed è una cosa importante invece il saperlo. Mi spiego? Che la gente capisca queste cose. Posso farti prima di entrare in alcuni dei tanti punti che hai toccato, perché visto che ci sono tante promesse di provvedimenti che potrebbero incidere su alcune di queste cose, su un sostegno universale anche per questo mondo, per chi non ha lavoro e così via, ma prima è una domanda culturale la mia, visto che te ne occupi da tanto tempo. Allora, qual è secondo te, dal tuo punto di vista, la ragione per la quale, secondo me nella prima repubblica c'era, sbaglierò più attenzione sia da una parte, da un blocco politico, quello che governava senza alternanza, che quello che faceva l'opposizione e praticamente non ha mai governato, poi c'erano accordi consociativi, però io ho l'impressione che verso questo mondo ci fosse più attenzione allora di quanto non ce ne sia stato nella seconda. E la cosa che mi colpisce, seconda parte della domanda, è in particolare, come devo dire, il fatto che la sinistra fatichi ancora a capire che questo mondo, un mondo di piccolo, non solo autoimpiego, ma piccola microimpresa, ma così diffuso nel territorio, nelle reti territoriali, dove poi la sinistra ha un radicamento storico nel nostro paese, che quindi conosce bene da questo punto di vista, però alla fine, come hai ricordato tu, quando si è trattato di modificare il decreto Poletti sul lavoro, ecco che automaticamente scatta un riflesso condizionato che io rispetto, che capisco, CGL, sindacati, come dico, che però pensa soprattutto a quello che alla diffidenza verso le grandi imprese, allora rialziamo i vincoli per esempio sul tempo determinato, dimenticando esattamente quello che hai detto tu. È così anche secondo te? Prima, non per fare i nostalgici, non sono nostalgico, ma c'era un'attenzione che perché culturalmente poi sembra essersi attenuata e perché la sinistra su questo ancora continua ad avere un riflesso condizionato non troppo favorevole secondo te? cerco di spiegarmi così. Vedi, la Democrazia Cristiana aveva una sensibilità verso le partite IVA, i lavoratori autonomi, perché era un popolo di riferimento, così come qualcuno dice lo è per Forza Italia. La verità è che è in parte vero, ma non è del tutto vero. Per esempio, ci sono stati anni, e facevi bene a sottolineare, io mi ricordo Borghini, no? Esatto. Del PD che parlava dei ceti medi produttivi. C'era un'attenzione perché capivano, vedi, andavi in sezione la sera, permettimi questa cosa, e si parlava, no, del calo del tasso tendenziale di profitto, l'aveva detto Marx, no? Calerà il tasso, per cui le aziende si devono mettere insieme, devono essere grandi per sopravvivere. E sono stati smentiti dai fatti. Per lo stesso sindaco che la sera in sezione sentiva questi discorsi, la mattina dopo nel suo ufficio riceveva gli artigiani e faceva quelle aree, quegli insediamenti produttivi, quei PIP, per dargli il terreno per costruire il suo laboratorio. E così l'Italia è cresciuta, perché qualcuno parla della piccola impresa come fosse spazzatura. È l'essenza produttiva del nostro paese. Guardate che anche, per esempio, se io penso al Veneto, il Veneto, ma il Nord-Est in generale, nel 2012 ha fatto 40 miliardi di saldo attivo della bilancia commerciale, è vero favorito dal calo dei consumi e quindi delle importazioni, ma nel 2013 ha fatto 43 miliardi e sarebbero di più se togliamo le importazioni di auto dalla Germania, che passano tutte per Verona, quelle della Volkswagen. Esatto. E allora, questi sono importanti, perché è scaduto l'interesse? Perché c'è questo malinteso, no? Cioè io mi curo i miei, io mi curo i dipendenti pubblici e li favorisco, io invece curo gli altri. Ma è un patrimonio del paese, non di un singolo partito, è questo che non capiscono. Cioè c'è questo deficit culturale di non capire che la risorsa importante che è il lavoro autonomo e la piccola impresa sta bene per tutto il paese, perché quando un padre cerca lavoro per il figlio, perché adesso succede anche questo, che il figlio non riesce neanche, mi spiego, non ha neanche più l'educazione di cercarselo, no, si preoccupa, viene a parlarti e dice: ma come si fa? Non si fa se non si favorisce l'impresa, se non si cala per esempio il costo dell'energia, se non gli si dà il credito, se la burocrazia non la smette di essere feroce. E ripeto, questo valore culturale è per il lavoro. Non puoi continuare a pensare che il lavoro sia una cosa che piove dall'alto, che sia una questione di fortuna o di amicizie. Il lavoro si crea favorendo le imprese. E guarda che questo passaggio, scusami Oscar, potrei ripeterlo 100.000 volte al giorno, ma la gente non lo capisce mica, sai. Pensano che il lavoro sia un qualcosa che cade dal cielo, no, che viene creato dal basso. Che viene creato dal basso. Hai perfettamente ragione. Adesso abbiamo 60 secondi di interruzione per le informazioni sulla circolazione stradale, poi torniamo con Giuseppe Bortolussi a parlare di questo primo maggio dal punto di vista non di chi è sovraordinato, non è migliore degli altri, però c'è il lavoro autonomo nel nostro paese, insieme a quello dipendente, insieme a quello della autoimprenditorialità, della piccola impresa e anche della microimpresa, di cui vogliamo tessere oggi le lodi, smentendo quelli che dicevano spari ride è meglio così, così alziamo la produttività. Col piffero, strade. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati dagli studi Radio 24 di Milano in questo pomeriggio del primo maggio, la festa del lavoro, non solo dei lavoratori, del lavoro nel suo complesso, un lavoro colpito duramente in questi anni di crisi, e lo facciamo dal punto di vista, cercando di indurre qualche riflessione sul grande tema dei lavoratori autonomi nel nostro paese, della microimpresa, della piccola impresa, lavoratori autonomi che il nostro ospite di oggi, Giuseppe Bortolussi, segretario della CGIA di Mestre, che dedica una vita professionale di approfondimento esattamente a questo tema, non solo a questo ma soprattutto a questo, ci ha ricordato in 400.000 gli addetti in meno nel lavoro autonomo e la microimpresa e piccola impresa che sul lavoro autonomo si incardina nel nostro paese in questi anni di crisi. 400.000 addetti in meno sono, per così dire, un esercito di vittime in questa parte del lavoro. Allora, Giuseppe Bortolussi, il governo attuale, tra le diverse cose che promette al mondo del lavoro, ne promette alcune proprio attraverso la delega che il governo poi dovrà esercitare sul nuovo codice semplificato del lavoro, quello che si chiama Jobs Act, e che vedremo prossimamente su questi schermi. Però promette alcuni interventi, tipo un strumento di sussidio universale davvero esteso a tutti, ancora più della mini ASPI e dell'ASPI, introdotto dalla riforma Fornero per superare definitivamente il regime della cassa ordinaria, straordinaria e in deroga, che resta fino al 2017 quasi in vigore. E la domanda che ti faccio è: credi davvero possibile, e che caratteristiche dovrebbe avere a questo punto uno strumento di sostegno universale a chi perde il lavoro, esteso anche davvero al mondo del lavoro autonomo, secondo te? Vedi, il discorso è questo: non si possono fare norme tipo a chi è senza dipendenti si può dare questo contributo, perché allora uno ci pensa due volte prima di assumere, no? E quindi tarpi le ali all'impresa. Secondo me la cosa più importante, non cambio discorso Oscar, facciano pure questi cosi, ma è quasi il reddito di cittadinanza che questo paese potrebbe in parte permettersi, eh? E qualcuno mi ha risposto, parlando del reddito garantito ai giovani, ma se facciamo così nessuno va più a lavorare. Beh, nei paesi dove, è tutta Europa fuorché Italia e Grecia, sì. No, bene, in tutti quei paesi l'occupazione giovanile è il doppio della nostra. Non è che i giovani, se ricevono un contributo di 400-500 euro, sai cosa fanno? Invece di stare attaccati alle sottane della mamma, cambiano città, si iscrivono a una scuola, a un'università, magari fanno un lavoricchio che si aggiunge a quel reddito e sono liberi. Allora, attaccati alle gonne della mamma ci stanno, perché Padoa-Schioppa parlava di bamboccioni, poi un altro ministro parlava che erano attaccati alla gonna, perché il nostro non è un paese civile, perché dove si pagano più tasse ma si danno meno, capisci, meno risorse, meno cose ai giovani. E poi sai che il nostro è un paese per anziani, non è un paese, per pensionati, anche se anche questi stanno soffrendo in questo momento. In poche parole, il discorso da fare non è tanto ho un reddito generale garantito minimo per tutti, qualsiasi cosa succeda, ma la cosa più importante è che non si paghi l'energia dal 40-60% in più. L'imprenditore ha una sua dignità, vuole mantenersi da solo, vuole che le tasse siano a livello europeo, che le tariffe per esempio siano a livello, i costi siano a livello europeo, che le banche si comportino come qui ti faccio una domanda, perché questa è la radio di Confindustria, ma io per esempio sono stato sempre stato contrario al fatto che nell'attuale regime dei tanti sussidi che paghiamo in bolletta energetica, sto esattamente sul punto che hai toccato, si chiamano in termini tecnici gli stranded cost, costi impropri che noi paghiamo nelle bollette, e come sai in realtà per forza di contrattazione rispetto alla politica, ancora una volta alcune categorie di grandi imprese, quelle che si chiamano per esempio gli energivori da una parte, dall'altra altra quelli che hanno sbagliato il modello di investimento di generazione e hanno impianti di produzione di energia elettrica che non utilizzano, ecco, noi paghiamo dei signori sussidi per miliardi di euro, sommandole centinaia di milioni di euro a ciascuna di queste categorie, paghiamo e sosteniamo quelle imprese invece delle piccole e micro, che secondo me quelle sì che avrebbero bisogno di essere aiutate. Tu ci credi al fatto che questa logica possa essere capovolta, perché è una logica di forza verso la politica, secondo me? Si può essere capovolta, forse la prima volta in cui ci credo, naturalmente bisognerà insistere e far capire che poi, vedi Oscar, non è solo il contributo dato alle grandi, il fatto è che la tassazione su, diciamo, gli oli minerali, sul gasolio, sulla benzina, cioè in certi casi è il 60%, sì. Ma poi anche non c'è solo il prezzo industriale, più l'accisa, più l'IVA anche sull'accisa, cioè la tassa sulle tasse. Allora vedi, insisto, l'imprenditore vuole fare l'imprenditore, vuole avere la possibilità di giocarsela, cioè se lui pagasse l'energia quanto è giusto, se lui pagasse per esempio le tasse quanto è giusto, perché quando una piccola impresa con 2-3 dipendenti mi paga il 55%, e se te lo dico io, guarda, vedrai che è così, lo posso confrontarmi con tutti, qualcuno esagera, dice il 70, ma io ho fatto i calcoli sulle imprese anche che lavorano da soli, con uno, con due dipendenti, si arriva al 53-55%. E allora vedi, anche per esempio l'IRAP bisogna pensarci, prima rilanciamo i consumi, perché le piccole imprese vivono del mercato interno, e quindi io non ho avuto dubbi tra IRAP e IRPEF, va bene l'IRPEF per ora, adesso pensiamo all'IRAP. Ma ripeto, agli imprenditori diamo la possibilità di fare impresa, togliamoli un po' di burocrazia, diamoli anche se occorre qualche aiuto, ma loro vogliono crearsi il futuro con le loro mani. Il problema di darli quando chiudono ve li aiuti, per carità, è umano, è giusto, ma se loro potessero lavorare, se la giocherebbero... Non ci sarebbe bisogno di aiuti perché non chiuderebbero, questo è il punto di fondo. Senti, c'è una domanda rituale, ma dobbiamo per forza ribattere su questo tema, perché già vedo qua i messaggi che arrivano. Diamo una risposta sul solito tema, gli autonomi piangono, sì, molti avranno chiuso, però intanto nella vita precedente, finché avevano loro microimprese, eccetera, eccetera, detraevano quello che volevano e non pagavano le tasse. Guarda, ricomincia sta storia, mi spiego, del conflitto di interessi. Ci ho scritto un libro, Evasori d'Italia. Ho spiegato perché in vari paesi dove hanno provato, anche recentemente, 2010-2011, è fallita la cosa, e anche in Italia, quando l'ha applicata alla casa, l'hanno fatto, risparmio energetico 55%, ristrutturazioni 36%, l'hanno fatto per rilanciare l'edilizia, e ci sono in parte riusciti. Hanno anche fatto hanno stanato un po' di lavoro nero, soprattutto al nord, meno al sud, ma ci hanno rimesso 3,5 miliardi. Ora, se tu vuoi finanziare con i soldi pubblici questo discorso, fallo, ma ricordo che l'80% è congruo, cioè degli artigiani, commercianti, cioè dichiara quanto li chiede lo Stato con gli studi di settore. Ora, dopo 15 anni che li hanno introdotti, dopo, diciamo, i miglioramenti statistici, dopo che hanno fatto 3 revisioni, che cosa ha da dire la gente? Che rischino loro, ma scusa, ti faccio una battuta, no? Da giorno di festa, ma se si guadagna così tanto e si sta così perché bene, non può evadere tutto e scaricarsi tutti, ma perché non lo fanno certi disoccupati? Quanto purtroppo mi viene da dire, hai ragione. Io lo dico amaramente, perché c'è una cosa che proprio mi colpisce, questa è un'altra cosa culturale. Ti chiedo, ma tu nel tempo, in questi decenni, senza esagerare, non è che sei Matusalemme, però insomma 3 decenni che ti occupi di questa cosa, hai visto modificare in meglio o in peggio questa specie di frattura culturale della divisione tra mondo dei dipendenti, degli autonomi, che secondo me è anche figlio di un giochetto che lo Stato è abile ad alimentare, sì, con trucchetti, sì, come sì, quello che... Ma è uguale, va peggio, va meglio, come si fa a superarla? Allora guarda, va meglio anche se a fasi alterne, va meglio perché ormai, gioco forza, in Italia ogni famiglia ha qualcuno che è nel lavoro autonomo, fosse anche un giovane professionista avvocato, fosse anche un giovane commercialista, fosse un artigiano, nelle famiglie ce n'è uno, e quando questo spiega a suo padre, spiega a sua madre, anche se questa era un'insegnante, come stanno le cose, questi cominciano a capire com'è la realtà. Quando arrivano i conti dell'INPS, quando il figlio disperato dice non ce la faccio, aiutatemi, e allora questo sta cambiando le cose lentamente. Naturalmente però, come dicevi giustamente tu, c'è sempre questo tentativo di mettere l'uno contro l'altro, perché il vero problema, vedi, cercano, guarda, quando succede che buttano fuori sti dati sugli autonomi che guadagnano meno i loro dipendenti, che ripeto è una bufala, di solito il giorno prima, il giorno stesso, c'è un comunicato in cui si rivela che gli alti dirigenti italiani pubblici guadagnano 3 volte quelli dell'OCSE, i loro confratelli, i loro colleghi che lavorano in Germania, in Francia, in Inghilterra, 3 volte, e allora con questo si fa confusione e non si tiene conto di un... Aia, non si tiene conto, ma credo che sia caduta la linea, è vero o non è vero? Sì, è vero, nel frattempo purtroppo siamo anche praticamente, abbiamo anche esaurito il tempo, e a questo punto io posso semplicemente dirvi che mi permetto io di concludere la riflessione di Giuseppe Bortolussi, nel mentre lo ringraziamo di essere stati con noi. Sì, c'è una strategia dello Stato nel dividere i contribuenti, pensateci, non voglio accusare niente e nessuno, però pensate anche al fatto che tutto sommato San Giuseppe faceva il falegname ed era un artigiano. Io credo che abbiamo trattato troppo male nei decenni la parte del lavoro autonomo, che è di chi scommette su se stesso, sulla propria vita, e lo fa senza chiedere agli altri, chiede solo di poter lavorare. Io credo che dobbiamo cambiare tutti atteggiamento. Buon primo maggio a tutti ancora, e grazie a Giuseppe Bortolussi di essere stato con noi.